Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. C'è una buona notizia che arriva ancora una volta dal nostro debito, o meglio da quanto ci costa rifinanziare il nostro debito. Perché? Perché l'asta dei BTP a 10 anni oggi ha toccato un nuovo minimo storico al 2,99%, non era mai stato così basso il tasso di interesse che l'Italia deve pagare a chi finanzia il suo debito a 10 anni, perché questo poi vuol dire avere un BTP al 2,99%, e lo spread con il Bund tedesco è sceso a 154 punti, un livello basso, molto buono, e questa è la famosa finestra dell'opportunità a cui si riferiva ieri anche il presidente della Consob Vegas, una finestra che non si sa quanto durerà, ma è indubbio che in questo momento da parte degli investitori internazionali, che sono in parte compratori del nostro debito, ci sia un atteggiamento più che positivo nei confronti del debito italiano, non solo, anche del debito spagnolo, ma noi siamo italiani, di quello italiano ci occupiamo. Ripeto, 2,99%, nuovo minimo storico. La soglia è una soglia anche considerata psicologica, ne parleremo più avanti, e infatti alcuni operatori prevedono che possa calare ulteriormente, nel senso che la vedono come quella che si chiama soglia tecnica. Il tasso di interesse al 3% potrebbero infatti la rottura di questa soglia potrebbe scatenare l'acquisto di ulteriori titoli italiani e cali conseguenti dei tassi. Tutti i fondi di investimento che erano in realtà negativi sull'Italia si trovano ora spiazzati e quindi potrebbero rapidamente riposizionarsi. Ripeto, ne parliamo tra circa un quarto d'ora. Ancora, per quello che riguarda le notizie che copriremo oggi, c'è chiaramente la presentazione del piano industriale della Fiat, lo faremo nella seconda ora, del programma Detroit presentato da Sergio Marchionne. Non è un nuovo capitolo, cominciamo un nuovo libro, ha detto Sergio Marchionne, un piano coraggioso che rompe con il passato, è il piano che va fino al 2018, e lo illustreremo nel dettaglio, anche perché appunto la conferenza è stata molto seguita, perché era il piano Fiat ma anche il piano Chrysler. Parleremo anche della CGIL, perché c'è in corso il congresso, il 17° congresso nazionale della CGIL, duro attacco del segretario Susanna Camusso al premier Matteo Renzi, anche di questo parleremo. Dice attenzione, no all'autosufficienza del governo, l'insofferenza verso la concertazione torce la democrazia. Ne parliamo dopo, non voglio fare commenti ora. Ancora, per quello che riguarda i temi, parleremo anche della Natuzzi, perché c'è stato un po' di confusione a mio avviso anche per colpa delle agenzie di stampa sulla produzione di 130.000 divani Natuzzi che potrebbe tornare in Italia dalla Romania. È una prima tornata di esuberi dell'azienda di Santeramo in Colle, ritornerebbe al lavoro. Ne parliamo appunto tra pochissimi minuti. La borsa, come sempre, meno 0,50% in questo momento Milano, meno 0,47 per la precisione, meno 0,77 fa Parigi, meno 0,64 è Francoforte, meno 0,46 Londra oggi è riaperta, meno 0,50 l'America. L'euro di nuovo forte a 1,3929, con buona pace tra virgolette della Francia, che anche ieri ha dichiarato che l'euro è troppo forte, e lo è per quasi tutti i paesi dell'area euro tranne che per la Germania e poco altri, se ne facciano una ragione anche i tedeschi. Andando avanti su questo, però, i titoli male: Jux meno 2,80%, Banco Popolare meno 2 come la Popolare Emilia Romagna, l'1,90 lo perde Fiat, e anche World Duty Free, Pirelli meno 1,70, Monte dei Paschi meno 1,60, Autogrill meno 1,5, Moncler meno 1,40% come la Popolare di Milano. Positivo invece Buzzi Unicem più 1,90%, Snam più 1,1, Esti Microelectronics più 1,1, Atlantia più 0,90% ed Eni più 0,16%, guadagna anche Saipem meno 0,70 e Prismian lo 0,22%, 349-238-6666 per i vostri sms, e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. economia come sempre internazionale. La prima persona al mondo che potrebbe avere un patrimonio di 1.000 miliardi di dollari potrebbe arrivare nei prossimi 25 anni, potrebbe essere Bill Gates, il fondatore di Microsoft, che attualmente è l'uomo più ricco al mondo. Lo rivela il Wealth Report, la banca Credit Suisse. Non sarà l'unico. Vi saranno tra 25 anni altri 10 miliardari in migliaia di dollari, in migliaia di almeno 1.000 miliardi di dollari, provenienti soprattutto dai mercati emergenti, Cina e India in testa. Sostanzialmente stima il Credit Suisse che entro il 2040 nel mondo ci saranno 1 milione di miliardari. 1 milione di miliardari mi sembra tanta roba, però non saremo tra questi, non vi preoccupate. Detto questo, negli ultimi 30 anni il patrimonio dei 400 uomini più ricchi al mondo inseriti nella classifica di Forbes è triplicato. Pensate che quando il magazine Forbes iniziò a compilare la lista dei più ricchi, servivano per entrare nella classifica 75 milioni di dollari. Oggi serve almeno 1 miliardo. Praticamente, secondo un articolo del quotidiano britannico Daily Telegraph, per avere possedere un patrimonio di 1.000 miliardi di dollari significa poter acquistare tutta Londra ai prezzi correnti. Lo dico perché mi scrivete su Piketty, questo economista francese che ha avuto un boom, il suo libro è uno dei libri più venduti, è stato ricevuto da Obama, non è molto amato in Francia. Piketty va a analizzare soprattutto quello che è successo negli ultimi 20-30 anni, individuando negli squilibri, da un lato, i bonus dei manager che si sono svincolati da qualunque tipo di rapporto con quello che è il rendimento dell'azienda e quindi l'andamento del conto economico, e questo è innegabile, lo spieghiamo da anni. Nel 1973 i top manager delle prime 100 società americane guadagnavano circa 70 volte lo stipendio medio di un dipendente. Nel 2007, prima dello scoppio della crisi, gli stessi 100 manager delle prime 100 società americane erano arrivati a un rapporto di 243 volte lo stipendio del dipendente. Allora, questo è sicuramente un aumento della forbice o del Gini Index, come si chiama in gergo, innegabile. E questa è la tesi di Piketty, che dice che tra l'altro tutto si è spostato sulla rendita, e quando la rendita aumenta a sfavore, diciamo, del reddito prodotto dal lavoro, occorre iniziare a tassare la rendita e liberare risorse sul lavoro. È un libro che, ripeto, in Francia è stato accolto con freddezza perché dicono è un neomarxista. In America ha conquistato le elite americane, è invitato in qualunque università, ricevuto la Casa Bianca. Cercheremo di portarla anche in trasmissione, così come abbiamo cercato di portare in trasmissione oggi il premio Nobel dell'economia Stiglitz, che sta tenendo una conferenza alla LUISS di Roma. Lo dico perché è invitato alla 14ª lezione Angelo Costa. Stiglitz non rilascia interviste nelle radio, nelle televisioni, e quindi non c'è stato possibile. L'avrei invitato volentieri, perché da un premio Nobel del genere sentirsi spiegare perché l'euro non ha funzionato, o meglio l'Unione Monetaria Europea non abbia funzionato come ha detto poco fa, che bisogna correggere la struttura dell'area euro, è interessante ed è molto interessante. Cosa diversa, lo dico senza polemica, è invitare apprendisti stregoni che si sono reinventati dopo aver passato magari la vita a lavorare nelle banche d'affari, si sono reinventati come teorici della possibilità dell'uscita dell'Italia da sola, dall'euro, del ritorno alla lira. Ok, però quando lavoravano in Deutsche Bank e in altri gruppi d'affari, lì andava benissimo l'euro, la finanza e tutt'altro. Bellissimo questi cambi, diciamo, da demi-vierge, dicono in francese, da mezze vergini. Andiamo avanti invece con le altre notizie. La Francia è un paese strano, ma anche la Gran Bretagna, perché sono, quando vogliono, soprattutto la Gran Bretagna, si fanno paladini del libero mercato. Poi quando toccano le aziende, i gruppi loro, cambiano le cose. Perché lo dico? Perché il premier Hollande oggi ha detto: l'offerta che la General Electric ha fatto per il gruppo francese Alstom è insufficiente e non è accettabile. Ora, come opinione personale, tutti possono parlare, ma Hollande, ossia lo Stato francese, non ha nemmeno un'azione di Alstom. Quindi a che titolo parli il Presidente della Repubblica francese su un'azienda privata di cui lo Stato non partecipa neanche per un euro? Sarebbe come se Renzi si mettesse a commentare le scelte, faccio per dire, ma non di un asset strategico come Telecom, ma di un gruppo privato italiano che decide o no di accettare un'offerta di un altro gruppo straniero. Insorgerebbero tutti, anche in Europa. Ecco, Hollande l'ha fatto, e devo dire che in questo è simile anche a quanto fatto Cameron in Gran Bretagna, tant'è che Miliband, il capo dell'opposizione, lo ha accusato perché si è intromesso nella vicenda Pfizer, che fa tipo per la Pfizer nella corsa per acquisire AstraZeneca. Anche lì il governo britannico non ha un'azione della Pfizer, non si capisce perché debba intervenire ufficialmente, tant'è che Miliband ha detto che Cameron si comporta come un cheerleader. Andiamo avanti. La casa farmaceutica tedesca Bayer intanto ha annunciato che intende acquisire il comparto dei medicinali da banco, cioè quelli che sono somministrabili senza ricetta medica, del colosso americano Merck, altro colosso della farmaceutica, un'operazione che vale 10 miliardi e mezzo di euro. Dell'Italia, dei derivati abbiamo già detto, bellissima la notizia, fra poco la commenteremo. Poi invece ci sono tutte le stime dell'OCSE, che ha rivisto al ribasso il PIL italiano, più 0,5% quest'anno contro lo 0,6% stimato dalla Commissione Europea, e lo 0,8% e dall'Istat anche, e lo 0,8% stimato dal governo. L'anno prossimo il governo stima 1,1% e invece l'OCSE stima più 1,1%. La ripartenza dell'economia italiana vera e propria, dice l'OCSE, arriverà solo l'anno prossimo grazie al ritorno di fiducia e al taglio delle tasse. Il debito dell'Italia scenderà solo a partire dal 2016, il paese resta ancora vulnerabile, essenziale la cautela sui conti pubblici con la riduzione della spesa. La disoccupazione, conferma l'OCSE, e devo dire che sono tutti d'accordo, l'OCSE, il governo, l'Istat, crescerà anche quest'anno, l'abbiamo spiegato più volte. Quando c'è un po' di ripresa non è che subito ripartano le assunzioni, le imprese tendono a tenersi gli occupati che hanno e aumentare i margini, poi se continua, se si conferma, se si struttura, se si consolida questa ripresa, iniziano anche le assunzioni, quindi quest'anno aumenterà ancora la disoccupazione al 12,8%, scenderà di poco al 12,5% l'anno prossimo. Allora, interessante sapere quello che è il giudizio del ministro dell'economia Piercarlo Padoan sulle stime dell'OCSE, visto che lui è stato il capo economista dell'OCSE fino a 3 mesi fa, e un po' di più, e anche vicepresidente dell'OCSE. Allora ascoltiamo il giudizio del ministro dell'economia Padoan sull'analisi dell'OCSE. I dati dell'OCSE sono delle stime, vedremo alla fine quali saranno i risultati. Noto anche però che nella statement dell'OCSE si dice che le misure di taglio delle imposte appena varate dal governo, sostenute da tagli di spesa, e le misure di rimborso dei debiti della PA potranno avere un effetto considerevole in termini di fiducia e di crescita. Quindi complessivamente io ritengo che l'analisi dell'OCSE sia molto incoraggiante per il Paese. Sempre il ministro dell'economia dice che l'Ecofin, oggi c'era l'Ecofin, che è l'incontro dei ministri economico-finanziari dell'Europa, ha avuto una discussione ampia e ricca sulla necessità che in questa fase di ripresa si accelerino le riforme per rendere la crescita più sostenibile. E poi ha detto che l'Ecofin ha apprezzato le scelte italiane sulle riforme. C'è stata una discussione molto ampia e molto ricca tra i ministri sulla necessità che in questa fase in cui si vede un po' di ripresa si accelerino gli sforzi per le riforme, perché questo rende la crescita più sostenuta, più sostenibile, e da questo punto di vista le scelte italiane sono state molto apprezzate. Come già sapete c'è un accordo tra i paesi della cooperazione rafforzata per andare avanti nel processo di adozione di una tassa sulle transazioni finanziarie, con l'impegno di avere primi risultati concreti che tasseranno le azioni e alcuni derivati per la fine di quest'anno. Together. We'll be right back. Così il ministro Padoan anche sulla Tobin Tax. Mi chiedete giustamente di Alitalia. Alitalia sarà tema di questa puntata. È volato ad Abu Dhabi l'amministratore di Alitalia Gabriele Del Torchio per incontrare i vertici di Etihad. Il ministro dei trasporti Maurizio Lupi si dice moderatamente ottimista. Volete sapere se mi riferivo a Borghi? No, sono andato a controllare il curriculum, no? Non ricordo male, ha lavorato in Deutsche Bank. Poi si è candidato, mi sembra, a Borghi. Quindi poi, alla faccia, diciamo, degli economisti, di quelli degli anti-euro, duri e puri. Poi si candidano. Non c'è niente di male, basta sapere che appunto è un'idea politica, non è un'idea, diciamo, da economista. Poi dico, un po' di coerenza nella vita non guasta. Andiamo avanti con i temi e partiamo proprio dalla coerenza, chiamiamola così, della CGIL, perché oggi Susanna Camusso non ha deluso chi si aspettava un attacco duro, frontale, netto al governo Renzi. Ha detto sostanzialmente: questo governo torce la democrazia, ha un'insofferenza verso la concertazione. Ed è l'ennesimo governo, abbiamo registrato da più governi a questa parte l'insofferenza verso la concertazione. Contrastiamo e contrasteremo l'idea di un'autosufficienza del governo che determina una torsione democratica verso la governabilità a scapito della partecipazione e ha prodotto vittime come gli esodati. Abbiamo registrato da più governi a questa parte l'insofferenza verso la concertazione. Insofferenza diventata sempre più esplicita, fino ad attribuirgli tutte le responsabilità, già affacciata da Monti e ribadita dall'attuale Presidente del Consiglio. Constatiamo con tutta la tranquillità necessaria l'ingenerosità di quei giudizi verso il mondo del lavoro. Contrastiamo e contrasteremo l'idea di un'autosufficienza del governo che taglia non solo l'interlocuzione con le forme di rappresentanza, ma ne nega il ruolo di partecipazione e di sostanziamento della democrazia. Una logica di autosufficienza della politica che sta determinando una vera e propria torsione democratica verso la governabilità a scapito della partecipazione. E l'abbiamo indicato come una nostra preoccupazione anche rispetto alla nuova legge elettorale e alla riforma costituzionale. Un giudizio, il nostro, esplicito sulla mancanza di equilibrio dei poteri e sulla riduzione della partecipazione. Poi continua la Camusso, quattro sfide al governo, dal lavoro al fisco, pensioni, ammortizzatori sociali, occorre aprire un'avvertenza, non ci sentiamo orfani ma protagonisti, si faccia davvero il contratto unico, giudizio negativo sul DL lavoro, aumenta i precari, unificare la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, occorre fare una riforma per i giovani e la soluzione degli esodati. Allora, Giorgio Pogliotti è l'inviato del Sole 24 Ore a Rimini. Buonasera, Giorgio. Sì, buonasera a voi. Dunque, fammi capire una cosa, perché adesso poi. Ma il fatto che la Camusso dica che qui c'è un'idea di autosufficienza del governo, a parte che i governi italiani mi sembrano tutto tranne che autosufficienti, comunque, una torsione democratica verso la governabilità a scapito della partecipazione. Io capisco che dice si punta più alla governabilità che alla partecipazione. Ora, personalmente preferirei un governo che governi piuttosto che un governo immobilizzato dall'eccesso di consultazioni, così come la capisco io. Però aiutami tu nell'interpretazione. Ma diciamo che insomma siamo in un'epoca nuova, insomma, no? E io ricordavo proprio che insomma in altri congressi, il congresso della CGIL del 2006, venne qui Romano Prodi, no? Di lì a poco sarebbe diventato Presidente del Consiglio e venne a salutare il congresso della CGIL e ricevette dall'allora segretario della CGIL Epifani un endorsement pubblico sostanzialmente di sostegno. Ecco, era il 2006, sembra lontano anni luce. Invitato al congresso, Renzi non è venuto perché, come sappiamo, insomma, l'idea che Renzi ha, diciamo, del sindacato, ma in generale anche delle parti sociali, è un'idea, insomma, che io ascolto tutti, però poi appunto decido e faccio come credo io, e peraltro appunto Renzi è fermamente convinto del fatto che le parti sociali, che il sindacato sia rappresentativo solo di una parte, peraltro anche minoritaria del mondo del lavoro, di qui anche un certo fastidio, una certa visione anche insomma del sindacato come una forza conservatrice. Quindi diciamo il giudizio, i giudizi che oggi ha dato la Camusso sono parte di una situazione politica che è profondamente cambiata rispetto al passato, quindi è difficile continuare a ragionare, a leggere queste diatribe con le lenti diciamo del passato. Siamo in una fase diversa, una fase in cui anche il sindacato ha sicuramente un peso molto inferiore rispetto al passato. L'abbiamo visto appunto le vicende del decreto lavoro, ma ancora prima l'abbiamo visto anche con la riforma pensionistica. Diciamo il peso specifico del sindacato è stato pressoché inesistente, insomma, ecco, su queste vicende, ecco. Allora, su questo però io vedo molti messaggi, in molti casi critici sul ruolo del sindacato. Adesso non possiamo fare la puntata sulle responsabilità, che pure ce le hanno le associazioni di categoria, le hanno nei confronti di quello che è successo. Neanche qualcuno si può chiamare fuori sugli ultimi 20 anni, e anche il sindacato da parte sua le ha. La CGIL delle volte apparsa sempre come il sindacato del no, però mi interessa più la lettura che stavi dando sul futuro. Allora, se tu hai notato, visto che stai seguendo e segui anche per il Sole 24 Ore i temi di carattere sindacale, hai notato diciamo una rassegnazione della Camusso, come dire, ho capito benissimo che non è più aria, però io tengo fede al mio ruolo, saremo anche una riserva indiana per modo di dire, ma rivendichiamo il ruolo della concertazione e della partecipazione. Anche se ho capito che Renzi, per il modello che ha adottato, perché pensa di beccare consenso elettorale, anche diciamo non dimostrandosi troppo prono o troppo attento alle esigenze del sindacato, andrà dritto per la sua strada, o secondo te la Camusso pensa ancora che possano cambiare i rapporti e la relazione con il governo? No, appunto, la Camusso non si rassegna e fa il suo mestiere e quindi appunto contrattacca, ma di fatto abbiamo visto tutti quanti che nel DNA di Renzi c'è un'idea della, non solo del sindacato, ma più in generale della rappresentanza sociale, che era, diciamo, è un tassello, ma non è il tassello, non è l'interlocutore diciamo esclusivo, e quindi appunto Renzi va avanti per la sua strada senza più di tanto farsi influenzare, diciamo, rispetto ad altri presidenti del Consiglio dei governi centrosinistra, sicuramente segna una netta discontinuità. E secondo me lo fa, questo però non riguarda questo programma, anche perché pensa di avere un vantaggio elettorale nel dire noi siamo un governo di centrosinistra, ma non più così sensibile, diciamo, usiamo questo termine, alle esigenze della CGIL, e dimostrarsi diciamo una terza via. A me interessa però anche un'altra cosa, perché una risposta alla Camusso, Giorgio, oggi l'ha dato il ministro del lavoro Poletti, a margine del ministeriale OCSE, ha detto a Parigi: è normale confrontarsi, è normale discutere e ascoltare le opinioni di tutti, ma credo sia normale anche che il governo si assuma le proprie responsabilità nelle decisioni, questo è un modo democratico di fare le cose. Ora, secondo te fa più male la Camusso questo giudizio freddo e distaccato di Poletti, che è stato il leader della Lega delle Cooperative, emiliano, gestisce in parte anche quello che è il potere economico ma anche elettorale delle cooperative italiane, o il rapporto con Renzi, con cui non si sono mai pigliati, mai annusati? Ma io insomma ripeto, non vedo nulla di nuovo. Poletti ribadisce una linea che c'è stata finora, ed è poi la linea insomma appunto di questo governo. Poletti peraltro domani sarà qui a Rimini, non credo che parlerà, farà degli interventi sicuramente a margine, noi giornalisti lo solleciteremo, però Poletti appunto viene a sentire, perché ha un'interlocuzione da sempre insomma con il sindacato. È un'altra diciamo faccia, però sempre comunque di un governo che appunto ha una sua idea della politica economica di questo paese, ha una sua idea appunto delle relazioni anche industriali e la persegue sostanzialmente. Quindi diciamo io non so ora alla Camusso chi fa più bene o chi fa più male, so che comunque c'è un disegno, diciamo vedo una coerenza negli atteggiamenti diciamo di questo governo, che conferma sostanzialmente quello che tutti sappiamo, no? Quindi sarebbe forse stato anche Sorprendente. No, ma infatti io ho anticipato e introdotto questo approfondimento. Parlano di coerenza, che va sicuramente riconosciuta a Susanna Camusso. Poi vedremo se è una coerenza che porterà qualcosa o porterà, diciamo, così all'Aventino nei confronti del governo. Grazie a Giorgio Pogliotti in collegamento con noi da Rimini. Together. Allora, c'è chi scrive, beh, tante cose, ognuno giustamente ha le idee che vuole sul sindacato, sul ruolo del sindacato, sulle responsabilità o i meriti del sindacato in questi anni. Non capisco, ma non capisco veramente in senso letterale, un ascoltatore che mi scrive: ma è veramente Barisoni quello che sto ascoltando alla faccia della virata? È una cabrata. Su che cosa? No, ma non capisco niente su che cosa. Sulla mia opinione nei confronti della CGIL, sul ruolo dei sindacati, su che cosa, non lo capisco. Detto ciò, andiamo col metro, la pubblicità, poi parliamo dei divani Natuzzi, ma non ci siamo dimenticati dei vitalizi mensili dell'Assemblea Siciliana. Io mi chiedo come sia possibile che l'ex presidente della Regione Siciliana Salvatore Cuffaro, in carcere, dove sconta una pena di 7 anni, riceva da 3 anni 6.000 euro lordi al mese come vitalizio. Ma voglio dire, non è che stia violando la legge, a parte che è già in carcere, ma insomma non c'è nessuna legge che vieta la corresponsione del vitalizio agli ex parlamentari in cella. Ma forse sarebbe anche un problema di opportunità. Ma questo è stato condannato a 7 anni, è in carcere e becca 6.000 euro lordi al mese. A 7:41 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, non c'è solo Cuffaro che continua a prendersi il vitalizio da 6.000 euro al mese, anche se da 3 anni in carcere deve scontare 7 anni di carcere. La legge del Parlamento siciliano blocca infatti i vitalizi solo per i reati contro la pubblica amministrazione, con la pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici. Quindi non se stupri qualcuno, non se hai associazione di tipo mafioso, però un caso, perché è il modo in cui l'Assemblea regionale siciliana ha recepito il decreto Monti sui costi della politica, quindi non avrà effetti sul caso Cuffaro. Ma non c'è solo Salvatore Cuffaro, perché ci sono un ex consigliere di Palazzo Normanni della regione condannato per reati che hanno a che fare con Cosa Nostra. C'è anche l'ex assessore regionale dell'UDC Vincenzo Giudice, arrestato nel 2004, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso. Lui ha scontato la sua pena, ma ha sempre percepito il vitalizio, sempre sui 6.000 euro. Riceve vitalizio anche Biagio Susini, ex sindaco di Mascali, ex deputato regionale del Movimento Repubblicano, arrestato nel dicembre scorso per corruzione. Non ha ancora una condanna, però voglio dire, tanto anche se ce l'avesse, anche se venisse in carcere, continuerebbe a percepirlo. E appunto non sono sfiorati dalle norme Monti, perché in bilico sono solo i vitalizi degli ex presidenti della regione Giuseppe Drago e Giuseppe Provenzano, entrambi condannati per peculato con interdizione dai pubblici uffici. Da che io capisco che per l'Assemblea regionale siciliana è più grave essere condannati per peculato e avere l'interdizione dei pubblici uffici che non essere condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso, visto che nel primo caso non percepisci più vitalizio, nel secondo caso, anche se sei in carcere per mafia, continui a prendere 6.000 euro lordi là al mese. Poi mi chiedete perché io sarei per abolire tutte le autonomie, anche Bolzano e Trento. Continuiamo così, perché poi ogni regione autonoma interpreta le leggi nazionali sulla base di direttive interne, e abbiamo visto che succede. Allora, Bruxelles, così vediamo di creare un po' di anti-europeismo. Io sono contro questa gestione dell'Europa e dell'euro, non contro l'euro. Bruxelles gli uffici di Bruxelles la chiamano indennità transitoria, ma in realtà si chiama incentivo al reinserimento lavorativo. Che cosa cavolo è? È una generosissima buona uscita che hanno tutti gli europarlamentari europei, a parte la pensione, va a sommarsi alla pensione ed è finanziata totalmente dal budget comunitario, quindi dai soldi degli europei. Per esempio, guardiamo quattro parlamentari europei, ma vale per tutti, equivale a chi ha passato un lungo periodo nel Parlamento europeo a 2 anni di stipendio, 190.000 euro. Ci sono 73 eurodeputati italiani, l'unica che potrebbe intascare la cifra piena è Cristiana Muscardini, ma non c'è nulla di illegale in questo caso. Faccio presente che i parlamentari che hanno messo piede per la prima volta a Strasburgo, Fabrizio Bertot di Forza Italia, Franco Bonanni del PD, Susi De Martini di Forza Italia, Franco Frigo, se non dovessero essere rieletti avranno comunque una buona uscita da 40.000 euro ciascuno. Il problema è che con tutte queste prebende i costi dell'Europarlamento volano a 1.756 milioni di euro, cioè costa un quinto di tutte le spese dell'Unione Europea, e il 35% è usato per pagare i 6.000 dipendenti dell'Europarlamento, le traduzioni e gli interpreti. Il 30% serve per finanziare le spese connesse ai 765 parlamentari, quindi rimborsi, assistenti, uffici di rappresentanza. Ogni parlamentare, europarlamentare, costa al contribuente europeo 2.295.000 euro l'anno. Presidente di Confindustria Puglia, Domenico Favuzzi, buonasera. Salve, buonasera. Non voglio parlare con lei degli europarlamentari, però ha sentito, insomma, no? Bella vita. Abbastanza. Tra i consiglieri della Regione Sicilia che beccano il vitalizio anche quando sono in carcere e gli europarlamentari che costano una cifra di 2.295.000 euro l'anno, mi sembra un po' tanto, ma non voglio, sennò poi dicono che sono contro anche i parlamentari europei. Da lei invece vorrei sapere, sì, non è nulla di illegale ma è immorale, sono d'accordo, è obiettivamente immorale visto la gestione di questa Europa e visto anche poi la situazione in cui gli europei sono. Qualcuno mi scrive in questo modo: date i voti a Grillo. Io leggo le notizie, poi ognuno ne trae le conseguenze che vuole, non è che smetto di leggere le notizie perché ho paura che prenda voti Grillo. Oh, magari spero e auspico che cambi questa gestione dell'Europa. Ancora un minuto di pazienza, Presidente, perché io vorrei capire la vicenda Natuzzi, perché in realtà la manifestazione di interesse della società News, vorrei capire, c'è, è seria, perché sembrava fosse un ex dipendente, poi non è un ex dipendente. In ballo ci sono 120 lavoratori che la News si è offerta di riassumere per riprendere a produrre i divani che la Natuzzi aveva delocalizzato in Romania. Allora, presidente degli industriali pugliesi, Domenico Favuzzi, ci può raccontare la vicenda? Perché insomma, la Natuzzi ha spostato in Romania, da Santeramo in Colle, la produzione di 130.000 divani. Ieri abbiamo letto che potrebbero rientrare in Italia, c'è stato un incontro e c'è stata una manifestazione di interesse da parte di una società che si chiama News, a sede a Grumo Appula, in provincia di Bari. 181 dipendenti, un fatturato di 11.500.000. Se ho ben capito, si impegnerebbe a riassumere 120 lavoratori in esubero, così come previsto l'accordo del 2013, che prevedeva una riduzione degli esuberi da 1.626 a 1.500. Prego, Presidente. Ma in realtà, innanzitutto l'attività che Natuzzi aveva in Romania non era stata una delocalizzazione, ma era stato un investimento fatto in passato, quando Natuzzi era in forte espansione, così come gli insediamenti produttivi fatti in Brasile e piuttosto che in Cina. E oggi invece nel nuovo scenario che sta investendo da qualche anno il gruppo Natuzzi, c'è un ridimensionamento verso il basso del numero delle sedute prodotte, e quindi è nato il problema di una serie di esuberi in Italia, i 1.600 a cui lei faceva riferimento. E per evitare questi 1.600 esuberi sono nate un insieme di iniziative che prevedono anche, in un accordo quadro fatto con la regione Puglia e la regione Basilicata, la possibilità da parte di diversi soggetti di accedere a dei finanziamenti per aiutare questa, diciamo, riorganizzazione del gruppo Natuzzi, che poi in realtà è anche una riorganizzazione di un intero settore del distretto di Salotto a cavallo tra Puglia e Basilicata. E tra queste iniziative, una che lo stesso Pasquale Natuzzi aveva lanciato è la sua disponibilità a dare priorità agli investimenti in Puglia, chiudendo delle linee produttive all'estero, e laddove ci fossero stati degli imprenditori che in Puglia erano disponibili a farsi carico di una parte dei lavoratori che erano in esubero qui in Puglia e a fronte, diciamo, di cessione di attività produttive di cui lui ovviamente si impegna a mantenere la commercializzazione a livello mondiale. Allora, Presidente, le sembra credibile questa offerta? Perché noi abbiamo cercato anche il proprietario della News, ma non siamo riusciti a trovarlo, insomma, non era reperibile. Io so che ci sono molte attività in questo ambito, quindi anche come lo stesso Sole 24 Ore raccontava, sono diverse le offerte di iniziative che si stanno realizzando. Ora, che poi ci sia un ex socio, un ex dipendente di Pasquale Natuzzi più o meno, la cosa non è importante, l'importante è che però è un gruppo di imprenditori locali che sta, tra cui anche delle persone che hanno lavorato per Natuzzi, che si stanno proponendo nel sostituire Natuzzi in una parte della produzione di Natuzzi in questa fase. E ora che il tutto vada a finire con la sigla degli accordi definitivi, credo che sia estremamente auspicabile, perché è in linea con quello che erano le idee che c'erano alla base. No, ma noi siamo molto contenti, anche perché, voglio dire, qui parliamo di lavoratori in primo luogo. In un distretto, quello del mobile imbottito, come si chiama in gergo, che vive in Puglia e in Basilicata, ma ha avuto una grossissima crisi. Pensate che le aziende sono scese da 500 nei primi anni 2000 a 100, quindi ne è rimasta viva una su 5. Gli addetti sono passati da 14.000 a 6.000, questi sono drammi veri in una regione come la Puglia, e il fatturato complessivo del distretto è calato da 2 miliardi e 2 a 700 milioni di euro. Quindi, Presidente Favuzzi, cioè, l'interesse anche per, non dico riportare, lei ha ragione, ma partire con un nuovo sviluppo del polo, perlomeno parziale. Questo è l'aspetto più importante, infatti, perché diciamo, da un lato non si riduce la capacità di Natuzzi, del suo share di mercato a livello mondiale, dall'altro si facilita alcune iniziative locali di piccole e medie dimensioni che possono utilizzare al meglio il cappello Natuzzi, ma provare a percorrere delle strade di diversificazione che possono portare a nuove quando potrebbe arrivare la conferma? Il prossimo 14 maggio, visto che vi è un'altra manifestazione di interesse per produrre altri 130.000 divani, sono le varie manifestazioni a cui riferiva anche Sole 24 Ore oggi, chiaramente. Poi il 19 maggio vi sarà l'incontro dell'assessore pugliese al lavoro Leo Caroli con i sindacati. Sì. Secondo lei quando avremmo a questo punto conferma, se le cose sono andate in porto? Io spero che nell'ambito del mese di maggio, diciamo, ci possano essere delle sigle definitive. Fine maggio? Entro fine maggio. Okay. Credo che comunque sia un processo che è abbastanza avanzato e che finalmente sta producendo dei primi risultati concreti. In bocca al lupo alle imprese pugliesi, soprattutto ai loro dipendenti. Noi salutiamo sempre, visto che qua i nazionalisti li fanno tutti. Hollande parla dell'Alstom pur non avendo un'azione, Cameron parla della Pfizer anche se non ha un'azione. Potremmo essere tifare Italia senza che ci sia nulla di male nell'internazionale delle imprese, ma se la produzione di 130.000 divani torna in Puglia, noi facciamo il tifo, siamo venuti anche per Passione Sud, ma facciamo il tifo in generale sempre per l'Italia. Anche noi non possediamo un'azione della Natuzzi e non facciamo neanche il Presidente della Repubblica, per cui possiamo tranquillamente dirlo. Grazie al Presidente di Confindustria Puglia, Domenico Favuzzi. Adesso la borsa, vi dovrete accontentare di me, perché poi invece la pagina lunga oggi sui mercati riguarda il BTP a 10 anni, minimo storico sotto la soglia del 3%. La borsa oggi non presenta grandissime notizie, ma poi le commenteremo. Mi riferisco, l'indice ha perso lo 0,55, Parigi meno 0,78, Francoforte meno 0,65, Londra meno 0,35, l'America meno 0,42%. Minuti, riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Allora, dicevamo della borsa e poi arriviamo ai BTP, passiamo anche per Fiat e chiudiamo con Alitalia. Vediamo se ce la facciamo, vedo sguardi scettici in regia. Allora, dovete accontentarvi di me, oggi negative anche se non pesantemente tutte le borse. Dicevamo prima, mezzo punto percentuale in media il calo a Milano, meno 2,80% UX, Banco Popolare meno 2,30, Pirelli meno 1,90 come World Duty Free, Autogrill meno 1,80%, Moncler meno 1,60, Popolare Emilia Romagna meno 1,5. Oggi in particolare, come sentite, soprattutto il Banco Popolare e la Popolare Emilia Romagna hanno ceduto. Sull'Emilia Romagna si attende ancora la decisione della famiglia dell'aumento di capitale, scusatemi, che dovrebbe attestarsi insomma tra i 600 e gli 800 milioni di euro, se ben ricordo. Tra chi ha ceduto, oltre ai titoli citati, segnalo anche Finmeccanica meno 1,36 come Unicredit, Exor, la finanziaria di controllo del gruppo Fiat, meno 1,20 come Enel e Campari, ma anche la stessa Fiat, di cui parleremo tra poco, che oggi ha presentato a Detroit il piano industriale 2014-2018. Pop Milano perde l'1,16, Mediobanca pure. Chiudiamo col Monte dei Paschi che cede l'1%. Da chi ha guadagnato, Buzzi Unicem più 1,80, Snam più 1,25%, il titolo è un po' che è in rialzo, questo va legato soprattutto alla pubblicazione della trimestrale. Snam ha aumentato l'utile netto nonostante, lo dico per chi non se lo ricordasse, il forte calo della domanda di gas e elettricità che si è registrato anche nel 2013 come conseguenza della crisi dei consumi e della crisi economica in generale. Infine Saipem positiva dello 0,77% e Atlantia più 0,81%, qui è spinta dalle trattative tra l'Italia e Etihad. Atlantia infatti ha una quota significativa nel capitale di Alitalia. Peggiori in assoluto, F meno 9,46, la Roma meno 6,16, Seat pagine gialle meno 5,5, TAS meno 4,80, Mondo TV France meno 4,70, fronte opposto Isagro più 5%, Pininfarina più 4,60, Geox più 3,80%. Ma la vera notizia, a mio avviso, sui mercati, come dicevamo in apertura, riguarda i titoli di Stato italiani. BTP a 10 anni che scivola sotto il 3%, non era mai successo nella storia del debito di questo paese. Per finanziare il nostro debito a 10 anni paghiamo come Stato solo il 2,99%, e lo spread con il Bund tedesco a 10 anni è sceso a 154 punti base. Faccio notare che siamo a meno di un terzo rispetto agli oltre 500 punti raggiunti durante l'attacco all'euro, la crisi fine novembre 2011 e inizio 2012. La cosa interessante però è che alcuni analisti fanno notare come si sia superata nel BTP la soglia tecnica del 3%, si sia rotta in realtà verso il basso, e questo potrebbe aprire le danze su altri acquisti e altri cali nei rendimenti dei titoli di Stato, che a noi convengono, perché vuol dire che risparmiamo. La stima per l'anno prossimo potrebbe essere addirittura di 15 miliardi di euro di risparmi, 9 quest'anno di interessi sul debito. Chiedo a Angelo Drusiani, storico analista del mercato obbligazionario in questa radio, lavora per Banca Bertini Siuz, buonasera. Buonasera a voi. La sento un po' basso, Drusiani, mi senti non ora? Sia così triste, perché ho capito che rendono meno i BTP, però insomma. Allora, lei è d'accordo con tutte queste analisi che ho visto in agenzia oggi, che dicono attenzione, questa è una soglia tecnica, quindi anche psicologica, molti operatori che erano scettici sul debito italiano potrebbero a questo punto riposizionarsi, quindi chiedere e acquistare nuovi BTP o BOT portando a un ulteriore calo dei rendimenti? Io partirei dalla premessa che l'avversione al rischio è scesa in maniera molto importante a livello mondiale, perché dei rendimenti dei titoli tedeschi o francesi nessuno si accontenta più in questa fase. Di conseguenza le emissioni dei paesi cosiddetti periferici, tra i quali appunto l'Italia, sono salite in maniera importante a livello di prezzo con una discesa significativa dei rendimenti. Ora, io quello che mi aspettavo qualche tempo fa era che il differenziale sarebbe sceso a 170 punti, lo dissi 2 anni fa, quindi forse un po' troppo in anticipo. Ora una grossissima fetta di analisti ipotizza che questo differenziale possa arrivare a 100 punti, quindi a 100 punti base. Quindi possa scendere, no, spiego a tutti, lo sì? Spread scende, ipotizzate che lo spread possa scendere a 100 punti e quindi esatto. Possono calare ulteriormente gli interessi, i rendimenti sui BTP e sui BOT, con un ulteriore beneficio per le casse dello Stato italiano. Si tenga conto di un aspetto che nel 2003, a giugno addirittura, quel differenziale che oggi vediamo a questi livelli era a 2,5, quindi era praticamente rimpari con quello tedesco, ed è arrivato a 552 punti, come giustamente lei sottolineava poco fa, a settembre del 2011. Ora, lo spazio per un'ulteriore discesa c'è, certo, chi è che deve aiutarci? Da un lato ci deve aiutare l'esecutivo, portando avanti quelle che possono essere le riforme che fin qui sono state indicate. Dall'altro la Banca Centrale Europea, decidendo ancora se ridurre ulteriormente i tassi di interesse o se finanziare il sistema affinché esca dalla recessione che sta attraversando una grossa fetta dell'area euro, in maniera tale che sia più facile per i paesi ridurre il proprio debito con le entrate fiscali. Se cresce il PIL, aumentano le entrate fiscali e riduce anche il debito, oltre che avere un denominatore nel rapporto deficit-PIL e debito-PIL migliore, no? Però su questo mi scrive un ascoltatore, il suo consulente finanziario gli dice che è la quiete prima della tempesta. Da un punto di vista... A parte che il suo consulente si merita un bel gufo, ma adesso non abbiamo tempo, però prego. Certamente, da un punto di vista dei mercati si sa che i mercati hanno momenti di euforia e momenti di depressione. Io credo che però in questa fase, visto che in area euro difficilmente i rendimenti saliranno perché non c'è assolutamente necessità che ciò accada, possono salire negli Stati Uniti ma non certo in area euro in tempi brevi, quindi spazio per un'ulteriore risalita delle quotazioni esiste. Certo, se in portafoglio un investitore ha 40, 50, 60 o anche più per cento di titoli italiani, in particolare di BTP sui quali guadagna parecchio, una piccola quota, portando a casa una piccola delle plusvalenze per una quota, secondo me può essere una strategia da non abbandonare. Vendere tutto io lo escluderei, però qui dipende anche dalla protezione al rischio. Allora mi faccio dire una cosa all'ascoltatore, bisogna capire anche cosa suggerisce il suo consulente, nel senso che se gli dice no, non compriamo BTP perché ci guadagna poco lui come margini, e perché suggerisce altri strumenti magari più complicati, magari strutturati, magari dove c'è un guadagno più alto, stia attento al consulente. Mi sembra di essere tornato ai tempi in cui conducevo Savadanaio, ma tant'è, insomma, ma attenzione, bisogna capire anche il consulente che cosa suggerisce in alternativa all'acquisto di BTP. Dopodiché, se la quiete prima della tempesta, se la pensa così, gli suggerirà di tenere i soldi sotto il divano o sotto il materasso. Storcerei il naso se suggerisse prodotti strutturati, magari di qualche SGR, magari un po' complicati, magari legati a un sottostante. Stiamo attenti su queste cose. Drusiani, un'ultima battuta, ma in realtà non è che il peso più forte ce l'ha la Federal Reserve, nel senso che la Banca Centrale Americana, iniziando a ridurre lo stampaggio di moneta, ha fatto capire quali saranno le prossime mosse e spinge tanta liquidità a spostarsi non nei paesi emergenti perché sono ancora un po' traballanti sull'area euro. Se lei vede il cambio di oggi 1,3953, questo significa che evidentemente c'è ancora una forte domanda di moneta unica, di titoli della moneta unica, tra i quali i nostri, ma non solo dagli Stati Uniti. Comunque io sono dell'opinione che ci sarà una sorta di decoupling, cioè un andamento differenziato dei rendimenti negli Stati Uniti e in area euro per alcuni mesi, dopo di cui ovviamente anche di qua i tassi tenderanno ad assomigliare a quelli degli Stati, ad adeguarsi a quelli degli Stati Uniti, ma ripeto, come dicevo prima, secondo me ci sono ancora alcuni mesi di bonus e quindi nel corso dei quali le quotazioni potrebbero salire ulteriormente e i rendimenti calare. I rendimenti scendere, sì. Alle 18:18 minuti ritorna Focus Economia. Allora, ultima parte, andiamo subito a Detroit, dove oggi il gruppo Fiat Chrysler ha presentato il piano industriale da qua al 2018. C'era molta attesa anche per l'annuncio di nuovi modelli, le modalità di finanziamento di un piano di investimenti molto ambizioso. Ha detto Sergio Marchionne: non è un nuovo capitolo, cominciamo invece un nuovo libro. Andrea Malan, inviato da Sole 24 Ore a Detroit, buonasera. Buonasera a tutti. È un piano coraggioso che rompe con il passato, oggi il primo giorno di una nuova vita, così sempre Sergio Marchionne. L'obiettivo di vendite globali nel 2018 di 1.900.000 auto del tutto il gruppo, rispetto a 1.500.000 di adesso. La Chrysler avrà l'obiettivo di vendere 800.000 auto, e che capisco che il marchio Fiat dovrà vendere l'altro 1.100.000. Dunque, gli obiettivi di vendita complessivi al 2018 sono quasi 7 milioni di veicoli. Ok, 1.9 solo Fiat. Solo marca Fiat. Ok, 1.9 solo Fiat, 800.000 Chrysler e 1.9 la Jeep, ho capito bene? Esatto, esattamente. A questi si aggiungono 1.200.000 di veicoli commerciali tra il marchio Fiat e il marchio Ram in America, 400.000 Alfa Romeo, quindi come previsto per Alfa c'è di nuovo un obiettivo molto ambizioso, ricordiamo che l'anno scorso Alfa Romeo ha venduto 74.000 auto. Il piano Alfa, come previsto, prevede investimenti per 5 miliardi di euro che saranno spesi interamente in Italia per 8 nuovi modelli. Il primo, hanno assicurato i manager, dovrebbe arrivare alla fine dell'anno prossimo, fine 2015. Non ci sono molte differenze rispetto alle indiscrezioni che hanno trapelate per quanto riguarda Alfa. Per quanto riguarda l'Italia, possiamo aggiungere che ci saranno anche 2 miliardi di investimenti di Maserati, che espanderà la gamma a 6 modelli complessivi e punta a vendere 75.000 auto sempre nel 2018. Ricordiamo che Maserati, che vendeva qualche migliaio di unità, è arrivata l'anno scorso, grazie alla Ghibli, al lancio della Ghibli, a poco più di 15.000, punta a superare decisamente le 20.000 quest'anno e quindi mantiene un obiettivo di fortissima crescita, sfruttando, diciamo, quello che è il generale movimento dei mercati verso i segmenti premium. Possiamo ricordare l'ultima cosa, anzi due: una, che non si è ancora parlato di soldi, quindi di fonti di finanziamento, salvo che Sergio Marchionne ha già messo in chiaro molto bene che Ferrari non si vende, quindi l'ipotesi che di una quotazione parziale, di una cessione di quote, è stata smentita. L'altro punto che volevo ricordare è che comunque rimane un ruolo importante per la marca Fiat, che insieme a Jeep sarà il marchio più venduto nel 2018, e sono stati confermati gli investimenti per dare un erede sia alla Punto che alla Bravo, quindi in sostanza il marchio Fiat non si ridurrà più, come si temeva, a 500 più Panda, ma conserverà una gamma più ampia. Allora, chiarissimo e molto completo la tua analisi. Appunto, Marchionne ha detto che ha affermato categoricamente che la Ferrari non è in vendita, però ti chiedo una cosa. Allora, la Fiat dovrebbe passare nei prossimi 4 anni da 1.500.000 a 1.900.000 di vetture. La Chrysler dovrebbe raddoppiare, arrivando a 800.000 vetture vendute contro le 350.000, quindi più che raddoppiare, del 2013. La Jeep dovrebbe più che raddoppiare, arrivare a 1.900.000 contro le 730.000 vetture vendute l'anno scorso. L'Alfa Romeo dovrebbe triplicare, perché da 74.000 dovrebbe passare a 400.000, anzi quadruplicare e forse anche quintuplicare, per essere più corretti. Marchionne dice che è un nuovo libro, non è un nuovo capitolo. Ti chiedo, è un libro dei sogni? domanda da un miliardo di dollari. Diciamo che i piani precedenti dal punto di vista dei volumi di vendita non sono stati raggiunti. Il piano 2010-2014 prevedeva per quest'anno 6 milioni di vetture, saremo a 4,6-4,8. Quindi ai volumi bisogna fare sempre una certa tara, diciamo che dipendono anche dalle condizioni del mercato, dipendono dal successo di questo o quel marchio o questo o quel modello. Diciamo che c'è l'ambizione di crescere, anche perché ricordiamolo, diventa ormai fondamentale per competere a tutto campo con i colossi del settore. Ricordiamo che i colossi del settore Toyota, GM e Volkswagen vendono già adesso 10 milioni di veicoli l'anno. Sarà interessante vedere nel prosieguo di questa giornata, sarà già notte in Italia, quelli che saranno gli investimenti messi sul piatto, e questo ci darà un po' più l'idea di quelli che potrà essere la strategia per arrivare a questi volumi. Abbiamo visto che i sindacalisti, tra l'altro italiani presenti anche loro qua a Detroit, hanno già espresso soddisfazione per il mantenimento degli stabilimenti italiani e per il tentativo di saturare questi investimenti italiani. Anche questa sarà una sfida molto importante. Comunque le 400.000 Alfa, le 200.000 Jeep di Melfi e le Maserati in più dovrebbero sicuramente ridare fiato nei prossimi 3 o 4 anni a stabilimenti italiani che, lo ricordiamo, sono da tempo in buona parte in cassa integrazione. Allora, ovviamente noi, come prima dicevamo per Anatuzzi, tifiamo sempre Italia, quindi ci auguriamo che questo libro sia un libro non dei sogni, ma un libro realistico, e che, appunto, tu già ricordavi come anche alla luce dei modelli il marchio Fiat non sarà più solo, non verrà relegato a 500 e Panda, e l'investimento importante otto nuovi modelli per l'Alfa Romeo, vedremo poi la Jeep e la Chrysler. Grazie ad Andrea Malani in collegamento con noi da Detroit, e noi tifiamo Italia e tifiamo anche all'Italia, nel senso che vorremmo che questa vicenda definitivamente si chiudesse. Allora voliamo, si fa per dire, ad Abu Dhabi. In realtà l'unico che è volato da Abu Dhabi è stato il numero uno di Alitalia, l'amministratore Gabriele Del Torchio, assieme chiaramente ai suoi collaboratori. Deve illustrare oggi la proposta di Alitalia a Etihad per convincere gli Emirati Arabi, e quindi Abu Dhabi in questo caso, a mettere 500 milioni di euro, comprare il 50% di Alitalia. Gianni Dragoni non è volato a Abu Dhabi. Buonasera Gianni. Buonasera, non c'è bisogno di volare ad Abu Dhabi per capire che la partita va avanti, non è finita. Guarda che se lo dici troppo poi il direttore non ti manda più da nessuna parte, comunque va bene anche così. La partita non è finita, ma resta l'ipotesi della bad company, che alcuni chiamano old company, che fa più bello, ma in Veneto si dice una mano di bianco, sempre bad company sarebbe, oppure la trattativa è proprio su questo? La trattativa, da quello che riusciamo a capire, perché c'è una suspense che oggi poi un muro quasi di riservo intorno, e è un po' il problema principale rimane quello del debito, che Etihad vuole che diminuisca, che sia in parte cancellato. La bad company, o come altro la si voglia chiamare, il governo dice che non sarebbe una bad company, ma questo, come hai detto tu, sono solo espedienti un po' lessicali. Diciamo che non è stato ancora chiarito, almeno non sappiamo se sia stato risolto. Il fatto che non ci siano annunci particolari oggi fa capire che ci sia probabilmente ancora da lavorare, dico con qualche condizionale, ancora da lavorare, direi ancora da lavorare molto su questo tema. Quindi credo che le ipotesi abbattimento del debito o conversione in capitale, o arrivare a questo anche attraverso la divisione in due società, una nuova buona e una vecchia un po' cattiva, se non è una bad company, siano ancora sul tavolo. E quindi però il silenzio è totale. Tra l'altro l'unico che ha rilasciato una dichiarazione ai ministri dei trasporti, ma questa mattina, Maurizio Lupi, che si è detto moderatamente ottimista sull'esito della trattativa. Aspettiamo l'incontro, poi il governo valuterà. Questa è l'ultima dichiarazione del ministro Lupi. Grazie a Gianni Dragoni. Buonasera, ciao. Ciao Gianni, grazie. Per chiarezza, secondo l'ipotesi che piace alle banche creditrici, Intesa San Paolo e Unicredit, che sono anche azioniste dell'Italia, ma anche Monte dei Paschi e la Popolare di Sondrio, si tratterebbe di fare una nuova società, una nuova holding a capo di due società operative. Se sarebbe una nuova società, quella partecipata al 100% da Alitalia, in cui Etihad entrerebbe con un 49%, con una buona capitalizzazione, 800-900 milioni, in cui verrebbero fatti confluire tutto il business e l'attività e anche una parte consistente del personale di 10.000 dipendenti. Poi la old company o bad company o old and bad, vecchia e brutta, resterebbero il debito, i contenziosi pregressi e il personale in esubero. E questo verrebbe incontro alle richieste di Etihad di non doversi accollare alla zavorra del debito dei vecchi contenziosi di Alitalia CAI, che valgono circa 400 milioni. Ma questo, secondo alcuni analisti, dovrebbe anche però portare a un maggiore investimento finanziario di Etihad. Staremo a vedere. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, magari anche con una vicenda all'Italia che va verso la sua conclusione. Da Sebastiano Berisoni, comunque, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.